imparato a scordare ogni sbaglio che ho fatto e pochissime cose che ho fatto un po' meglio. Il dolore che temo, la voglia di stare bene, che spaventa lo stesso, io non so perché. Fuggo via dal passato, troppo pericoloso, quelle lame lucenti affilate, ma se vuoi provare a toccarle, attenzione, che poi ti fai male. E fuggo dal futuro, un'altra porta chiusa che io non voglio aprire, ma sento dei rumori di là, qualcosa che mi chiama, ma io non so rispondere. E fugo e chiedo scusa, risparmio sulle lacrime, ma rido così poco e vedo questo mondo come me, imperfetto. Via da mio padre e quei severi occhi verdi che vedevano un po' più lontano e l'ho capito tardi. E fuggo per realizzare i miei piani di sempre, ma se mi guardo indietro mi accorgo di quanti ne ho persi per strada e quanti altri non ho immaginato. E fuggo dal futuro, un'altra porta chiusa che io non voglio aprire, ma sento dei rumori di là, qualcosa che mi chiama, ma io non so rispondere. E fugo e chiedo scusa, risparmio sulle lacrime, ma rido così poco e vedo questo mondo come me, imperfetto. Fair.